vorrei anche esprimere la mia gratitudine a coloro, gli organizzatori che mi hanno chiamato a presiedere questa seduta, nonostante che non abbia meriti specifici rosminiani, perché mi è accaduto di esporre tesi che mi sono particolarmente care e valorizzare autori che pure mi sono cari. Mi riferisco all'uso di Kant, la trattazione così seria e disponibile a utilizzare Kant nell'etica cristiana, di cui ci ha detto il professor Autiero, e poi a quel che il professor Nicoletti ha detto da vari punti di vista, anche egli per Kant, come abbiamo notato nella seconda parte della sua esposizione, quando ha parlato dell'attenzione kantiana per il diritto cosmopolitico kantiano. Qui credo ci siano delle differenze terminologiche, forse anche concettuali, che andrebbero studiate, perché anch'io ho incontrato difficoltà nel fare questo confronto. Società universale del genere umano, società teocratica universale, Chiesa, credo che un confronto fra Rosmini e Kant avrebbe bisogno di molta prudenza, ma questo non dico assolutamente nei riguardi del professor Nicoletti, che è stato prudentissimo. Per quanto riguarda il millenarismo, pure che credo che un confronto con Kant sarebbe importante, ed egli stesso l'ha avviato. Io credo che quando Kant parla del giusto senso simbolico voglia ridimensionare quello che ha detto poche pagine prima su un'eventuale apertura nel senso di un chiliasmo teologico. Credo che la veduta conclusiva di Kant, di cui parla il conflitto delle facoltà, e lo scritto sul progresso che nella seconda parte, sia a favore di un chiliasmo filosofico, cioè di un miglioramento soltanto giuridico ma non etico nel senso kantiano. Anche questi sono problemi su cui ho sentito volentieri un'apertura, e non solo, ma anche la interessantissima esposizione del pensiero di Rosmini in proposito. Poi sono molto lieto, già nominai ieri Piovani perché ho già avuto grande devozione, e questo libro su Rosmini l'ho sempre considerato un libro importante. Mi dispiaceva sentirne, magari sbagliando, una certa dimenticanza. Voglio ricordare anche, ripenso a quello che dicevo incidentalmente ieri intervenendo, l'attenzione che Piovani ha sempre avuto per la figura di Cristo e per il sacrificio di Cristo. L'ultima sua opera, Etica e Assenzialismo, si conclude con commosse pagine sul sacrificio di Cristo. Lo ricordava anche il professor Chietti, che ieri pure menzionavo proprio a questo proposito. Allora, a questo punto direi si possono aprire le prenotazioni al dibattito, poi seguirà la conclusione del professor Beschin. Un foglio bianco, grazie. Ah già, ma non ce l'ha più, le respire. Sì. Allora qua sono aperte le iscrizioni. Sì, me lo ricordo. Ci sono altre iscrizioni? Anche a conclusione di tutto il convegno, forse sarebbe il caso di arricchire il dibattito. Giusto. Mattai, sì. C'è nessun altro? Ma se non è irrituale, io proporrei una domanda all'uno e una domanda all'altro dei relatori. Al professor Autiero, se mi volesse chiarire qual è la possibilità di combinare in un unitario atteggiamento, coerente atteggiamento verso Kant, quello che gli ha detto nel Sinomos quando ha citato Mark McIntyre, e le possibilità di un esito relativistico, credo si possa dire così, di una riduzione di Kant dalla trascendentalità alla singolarità empirica, e con quello che ha detto invece nel secondo, dove introduce quel motivo dell'eudaimonia, sia pure affidato al giudizio di Dio, che noi non possiamo aggiungere. Al professor Nicoletti, questo è proprio un chiarimento che chiedo, io gli ho studiato in modo più approfondito di quanto io non abbia fatto il rapporto di la riflessione di Rosmini su questi problemi, il rapporto fra la società universale del genere umano, fra la società teocratica e società religiosa, sì, o chiese. Qualche accenno l'ho fatto, un accenno mi è sembrato anche al rapporto con la Chiesa, però con la Chiesa cattolica, io direi con la Chiesa in generale, in senso kantiano, con la comunità morale e religiosa. Perché io tendevo, a vederle la società teocratica con la società religiosa universale, a identificarle, ma forse sbaglio. Allora, se non ci sono altri, ripeto, allora si può dare la via. Invertiamo l'ordine, no? Si è sempre fatto nell'ordine regolare, allora il professor Autiero. Ma io rispondo a lei, perché gli altri non so. Scusatemi, stanchezza. Sì, sì, allora sentiamo gli interventi. No? Gli interventi, dunque il primo è Petterlini. Io l'avevo detto che non so fare questo lavoro al professor Beschini, ma non mi ha sentito, non ha sentito ragione, e così mi ero dimenticato. Premere il tasto bisogna. Vorrei porre una domanda al professor Autiero, e a proposito della fondazione argomentativa teleologica dell'etica. Per stringatezza vorrei porla sotto forma di dilemma. E cioè, o l'assolutezza del fondamento, che è stata da lei con forza richiamata, è in grado di stabilire un nesso decisivo, non problematico, nei confronti delle effettive scelte pratiche, o se il nesso è solo possibilitante, allora, data la ambiguità strutturale della figura della possibilità, cioè se è possibile e non cogente affermare, è possibile e non cogente anche negare, allora appunto l'assolutezza dichiarata ha solo valore formale, tautologico, e l'effettiva scelta pratica non gode di maggiore rilevanza etica della scelta opposta. La riflessione sulle sequele, sulle conseguenze, data la parzialità, storicità, ineliminabile, come è stato detto, di tale riflessione, come può escludere il sopraggiungere di elementi o di eventi in grado non solo di modificare, ma addirittura di capovolgere il mio attuale giudizio pratico? Non ci troviamo qui di fronte a quel paradosso delle conseguenze di cui parlava Max Weber a proposito dell'etica della responsabilità, col rischio di svuotare di contenuto la responsabilità stessa, che diventerebbe a questo punto appello, esortazione, intervento puramente ottativo? Grazie. Professor Conigliani. Mi rivolgo al professore Nicoletti. Secondo quello che sono riuscito a capire di Rosmini, c'è effettivamente una interpretazione della società civile in termini di analogia. Ecco, il mondo divino, il mondo degli uomini, c'è una certa analogia. A suo modo, naturalmente, Rosmini pone questa analogia, per cui si ritrova, potremmo dire, in una visione di teologia politica vecchia, secondo una distinzione tra vecchia e nuova che si è soliti fare. Certo, l'antiperfettismo mette in crisi questa analogia, perché significa che la società degli uomini è proprio spinta e pressata ad evolversi. Ma il concetto di antiperfettismo allora può essere senza dubbio visto analogicamente alla riserva escatologica di Metz, senz'altro. Però non lo so, può darsi che lei la sappia più lunga di me, ecco perché le sto facendo la domanda. A me pare che la riserva escatologica sia come l'esplodere del novum, il compimento, la pienezza escatologica che si riversa sul tempo e sulla storia, illumina il tempo, illumina la processualità storica e la spinge proprio a dichiararsi insufficiente, superabile e continuamente superabile. La teoria antiperfettistica di Rosmini invece scaturisce proprio dalla sua impostazione filosofica, e cioè è il rapporto sempre tra la idealità finita che è nella mente dell'uomo e la idealità infinita che invece è Dio. Pertanto, certo, si può fare una certa questione di analogia con la riserva escatologica, però quella è la novità. Questa invece è la realtà storica che è alla ricerca, ecco, del suo compimento, e pertanto c'è un graduale superamento. Non lo so, ecco, lei però la sa più lunga di me, quindi gradirei sapere esattamente cosa ne pensa. Per quanto riguarda poi quello che lei ha detto, e che peraltro leggendo Rosmini politico si intende, è la questione della società teocratica e del tribunale politico. In realtà la società teocratica è effettivamente una garanzia nei confronti del totalitarismo, di ogni rischio di totalitarismo, come lei ha detto, perché è qualcosa che precede la società civile e la società politica, e pertanto se poi la società civile è da intendere un mezzo nei confronti della persona, è ovvio che la società teocratica è una grande garanzia. Poi c'è il tribunale politico, il quale ha una origine teologica. Però la cosa strana è, nella prospettiva della filosofia politica rosminiana, che la società teocratica e il tribunale politico sono, come potremmo dire, degli istituti, per analogia, quindi tra tutte le virgolette possibili e immaginabili, che sono al di fuori della società, quella concreta dove sono gli uomini, e nella quale entrano gli uomini a titolo e coi diritti del cittadino. E ciò che consente all'uomo, all'individuo umano, di entrare nella società è la proprietà, secondo la prospettiva del Rosmini, secondo quanto ne ho capito. Ora, ciò che mi sembra strano, ecco, è proprio questo fatto che è al di fuori dei ritmi concreti della vita della società che l'uomo, proprio come persona, quindi nella sua radicale identità, prima di essere cittadino, per questa distinzione Rosmini la fa, ecco, trovi proprio le sue garanzie, addirittura contro ogni totalitarismo. Io, da quello che ho detto, si può ricavare che io abbia una concezione negativa della teoria della proprietà che ha Rosmini, e per molti aspetti ce l'ha, perché è secondo l'ancien regime. Ecco, la proprietà fa il cittadino, non dobbiamo dimenticare, penso che lui abbia questa idea. Però il discorso della proprietà privata, come la intende lui, come estensione della persona, come dice, espressione, non so se non mi sovviene l'espressione precisa, comunque è come un prolungarsi della persona e un esprimersi della persona, è come una sorta di possibilità che ha la persona di collocarsi nello spazio sociopolitico e di giocare il suo ruolo a pieno titolo. Ed è senza dubbio tale questa idea della proprietà da esercitare un ruolo positivo, perché il diritto alla proprietà consente al singolo uomo di sfuggire allo Stato, il quale, volendo togliere ogni diritto di proprietà, vorrebbe in qualche modo dominare l'intero spazio sociopolitico, aggiudicarsi o attribuirsi la titolarità piena nella produzione sociopolitica e pertanto bloccare proprio il cittadino, quindi l'individuo. Per cui credo che tutto sommato c'è un intendimento positivo. Però, ecco, nella visione globale della questione di Rosmini, a me ha fatto sempre difficoltà questa questione che le cose che proprio garantiscono il singolo e la persona, nella sua espressione, nella concretezza, si trovano al di fuori proprio della società concreta, nella quale purtroppo si entra e si vive concretamente e si esercitano tutti i diritti proprio in virtù della proprietà. Ecco, lei che la sa più lunga di me mi dirà qualcosa. Ma... Don Mattai. Devo ringraziare, prima di tutto devo esprimere un pensiero, come dire, di condoglianza ai due bravi relatori che hanno dovuto parlare, intrattenerci nella controra, in un'ora poco idonea a seguire in maniera attenta, insomma, discorsi piuttosto ardui. Capita a tutti, non sempre si può parlare di prima mattina quando l'attenzione è vigile e attenta. Sono incidenti di percorso che possono capitare. Devo ringraziare il professor Autiero perché ha risposto a una mia difficoltà che già gli avevo espresso in un'altra circostanza. E cioè, fermandoci e banalizzando forse un'espressione del Rosmini, potrebbe sembrare che il Rosmini sia fieramente deontologo quando dice che la norma o il principio supremo della moralità può essere espresso in questa norma: riconosci l'essere nell'ordine suo. Quindi potrebbe sembrare che la moralità si esaurisce in questo riconoscimento, e dove la possibilità del singolo di ragionare in maniera libera sia legata, sia imprigionata dalla fattualità dell'essere. Mi ha risposto egregiamente nella prima parte rispondendo all'interrogativo quale nomos. La seconda parte, in cui il professore ha illustrato egregiamente le due modalità argomentative dell'etica, mi creano qualche difficoltà. Riconosco che sono due modalità distinte, ma vorrei fare un piccolo paragone. In campo economico noi parliamo di modelli, parliamo del modello di concorrenza pura, parliamo di modelli misti. E poi si dice, sono modelli che aiutano a pensare, a avvicinarsi forse a quello che gli economisti chiamano l'ottimo paretiano, ma sono modelli che nella realtà concreta sono sempre frammisti. Non esiste né una libera e pura concorrenza, un libero e puro mercato, come non esiste nemmeno un'economia totalmente diretta dall'altro, perché un certo spazio al mercato bisogna farlo. Ora, analogamente, questi due modelli, che in teoria sono ben distinti, in pratica sono sempre frammisti. Anche il più fiero dei deontologi, scusatemi, io penso anche a documenti del Magistero, anche ad ultimi documenti che qui volutamente sono stati sottaciuti, sono documenti che cavalcano la modalità argomentativa deontologica, in quanto partono dalla natura dell'atto. Però proprio perché partono dalla natura dell'atto, quando si mettono a ragionare sfociano immediatamente nel campo teleologico. Per esempio, il non ammazzare diventa immediatamente il non ammazzare direttamente l'innocente. E allora per discernere ciò che è diretto e ciò che è indiretto, chi è innocente e chi è colpevole, bisogna fare spazio alla teleologia e uscire dalla prigionia del ragionare deontologico. Ma anche i teleologi a loro volta non possono sempre e solo ragionare in maniera teleologica, perché devono fare pure appello a dei valori che sono sempre ineludibili. Certamente per determinare che cos'è la giustizia in concreto o il riconoscimento, è dove la possibilità del singolo di ragionare in maniera libera sia legata, sia imprigionata dalla fattualità dell'essere. Mi ha risposto egregiamente nella prima parte rispondendo all'interrogativo quale nomos. La seconda parte, in cui Il professore ha illustrato egregiamente le due modalità argomentative dell'etica, mi creano qualche difficoltà. Riconosco che sono due modalità distinte, ma vorrei fare un piccolo paragone. In campo economico noi parliamo di modelli, parliamo del modello di concorrenza pura, parliamo di modelli misti. E poi si dice, sono modelli che aiutano a pensare, avvicinarsi forse a quello che gli economisti chiamano l'ottimo paretiano, ma sono modelli che nella realtà concreta sono sempre frammisti. Non esiste né una libera e pura concorrenza, un libero e puro mercato, come non esiste nemmeno un'economia totalmente diretta dall'altro, perché un certo spazio al mercato bisogna farlo. Ora, analogamente, questi due modelli, che in teoria sono ben distinti, in pratica sono sempre frammisti. Anche il più fiero dei deontologi, scusatemi, io penso anche a documenti del Magistero, anche ad ultimi documenti che qui volutamente sono stati sottaciuti, sono documenti che cavalcano la modalità argomentativa deontologica, in quanto partono dalla natura dell'atto. Però proprio perché partono dalla natura dell'atto, quando si mettono a ragionare sfociano immediatamente nel campo teleologico. Per esempio, il non ammazzare diventa immediatamente il non ammazzare direttamente l'innocente. E allora per discernere ciò che è diretto e ciò che è indiretto, chi è innocente e chi è colpevole, bisogna fare spazio alla teleologia e uscire dalla prigionia del ragionare deontologico. Ma anche i teleologi a loro volta non possono sempre e solo ragionare in maniera teleologica, perché devono fare pure appello a dei valori che sono sempre ineludibili. Certamente per determinare che cos'è la giustizia in concreto, essa non voluta e pur tuttavia leggibile sintonia delle due domande poste dal professor Marini e dal professor Pertellini. Io ci vedo una sintonia in queste domande e forse tentare una risposta incrociata può essere una via praticabile. Mi si chiedeva come mai, che uso facessi di Kant nella mia seconda serie di considerazioni, nella mia seconda parte, cioè a livello di etica normativa. Mi pareva di aver fatto intendere che proprio in questa seconda parte mi scostavo, in un certo senso andavo oltre la considerazione kantiana, il sistema etico kantiano, e questo indubbiamente è voluto per rispondere all'esigenza di mantenere, cosa che ho fatto nella prima parte, di mantenere l'ordine delle considerazioni, il ricorso a Kant come quello che geneticamente viene da lui inteso, cioè nella possibilità radicale di capirsi sulla questione del soggetto etico. Non è strano osservare, ecco l'incrocio adesso delle due domande, che Kant nella prima parte, adesso la terminologia diventa molto impropria, perché vorrei dire Kant nella prima parte del mio discorso, lui non lo conosceva, voglio dire nella prima parte la questione etica, cioè la fondazione del soggetto, è di orientamento dell'autonomia. Nella seconda parte del problema etico, cioè quella di etica normativa, è deontologo. E dunque il suo modello dell'etica del dovere, contrapposto a quello dell'etica della felicità, ecco, lo porta chiaramente ad una affermazione del ruolo prioritario del dovere e dunque del deon sulla misurazione dei fini del telos. È strano. Può sembrare strana questa associazione, autonomia nella prima parte e deontologia nella seconda. Nella osservazione del signor Pertellini c'è uno spostare sull'altro piano adesso la simmetria, e cioè se diventiamo teleologici, teleologicamente orientati nella seconda parte, allora evidentemente come la mettiamo, che cosa andiamo a ricavare dal punto di vista dell'autonomia? Dunque, autonomia, deontologia, eteronomia, teleologia. A me pare che questo tipo di schematizzazione un po' troppo rigido dovrebbe essere da noi ripensato, e allora qui ritrovo anche il monito, almeno l'appello, diciamo, che viene dalla domanda, dall'osservazione del collega Mattai, un appello a pensare al di là dei modelli o transmodellici. E evidentemente questo è possibile, pensare ad intreccio i due blocchi, quello del fondamento del soggetto etico e quello della fondazione dei giudizi morali. Questo pensare a intreccio non vuol dire trovare una falsa sintonia laddove non c'è, una specie di sincretismo non desiderato, vuol dire invece cercare di capire la proponibilità nella seconda parte delle conseguenze poste nella prima parte. Allora, qui io vedrei il recupero di un modo di considerare la possibilità della fondazione dei giudizi morali che faccia una scelta preferenziale per uno dei due modelli, ma la scelta preferenziale deve esserci per recuperare anche la possibilità dell'altro modello. La scelta preferenziale, a mio avviso, se voi Mattai potete esprimere in questi termini, a mio avviso c'è un ethos che deve regolare chi fa la mistura dei due modelli. Tu parlavi di scivolamento. C'è un ethos dello scivolamento. Un deontologo, quando scivola nel teleologico, mostra una sorta di angustia dell'argomentare. Quando è accorto con la sua lettura deontologica della possibilità di fondare un giudizio, scivola nel teleologico. Il teleologo, invece, dal momento che si lascia guidare, e io ho espresso chiaramente la mia opinione, nel mio testo scritto ho saltato due pagine purtroppo proprio di questa parte qui, ma sono stato imprudente nella misurazione del tempo e non ho considerato a sufficienza tutte le conseguenze, cioè quelle sugli uditori. Allora, il teleologo che si muove però in un sistema di teleologia di carattere proporzionalista e non di carattere conseguenzialista, quando deve soppesare la gerarchia, per dir così, la preferenza, la proporzione dei beni da prendere in considerazione lì, evidentemente recupera quel tanto di deontologico che può essere ancora recuperato, altrimenti non avrebbe la misurazione corretta dei beni che stanno in proporzione. Ecco, schematizzato, direi, uno scivolamento del deontologo nel teleologico è segno di cortezza dell'argomento. Uno scivolamento, che poi non è più scivolamento, ma è il recupero da parte del teleologo proporzionalista del livello deontologico, gli consente di fare meglio il suo mestiere di teleologico. Ecco, questo è un po' una risposta sintetica, evidentemente con questo si lascia un po' fuori soprattutto quello nella seconda domanda, che non vorrei trascurare di prendere in considerazione per non essere troppo tagliente, cioè per non ritagliare troppo di quello che invece qui giustamente veniva messo in risalto, cioè può finire per diventare soltanto formale, e lei diceva dunque tautologico. Sul dunque potremmo ancora discutere, perché non ogni principio formale è anche un principio tautologico. L'affermazione di qualcosa che ha il suo punto di riferimento nell'ordine del formale non è un'affermazione di per se stessa tautologica. Oltretutto avrei una certa difficoltà all'abbinamento conseguenziale, dunque tautologico, perché il tautologico mi sposta più sul piano della formulazione, per così dire, linguistico, logico-linguistica, mentre il formale non è soltanto logico-linguistico, è prima di tutto logico e poi casomai diventa anche linguistico. Allora, alla sua perplessità che forse nel sistema di lettura che proponevo ci fosse il rischio di ridurre la prima questione, quella del fondamento, e la sua assolutezza, ridurla soltanto a un principio formale, io direi senza timori, sì, se questo formale diventa ha il sapore di accorpare in sé la forza di fondare. Se invece si sgretola in una sorta di, come mi sembrava potesse temere lei, in una sorta di tautologico e dunque svuotamento del suo significato, allora direi no, perché l'assolutezza del fondamento, l'assolutezza dunque, chiamiamola qui con i suoi termini anche ridotta a un principio formale, l'assolutezza del fondamento non muore all'interno di quelle scelte nel categoriale che mantengono la propria connotazione relativa. Relativa non vuol dire meno obbligante, e relativa non vuol dire neppure non universale. La questione della universalizzabilità dei giudizi, e qui probabilmente ritorneremo anche a una lettura kantiana da fare da parte mia, probabilmente con maggiore estensione anche nel secondo ordine delle idee. In questo testo che ho annunciato, in cui affronto più in maniera più dilatata la questione del teleologico e del deontologico, mostro quale tipo di universalità, quale tipo anche di proponibilità al di là del singolo che fa il suo giudizio etico viene mantenuta ancora possibile anche facendo seguendo un procedimento di carattere teleologico. Dunque si reinterpreta la nozione di universalità, si reinterpreta la nozione di relatività o di instabilità in una maniera al positivo, dove un giudizio teleologico non diventa meno obbligante, il piano della obbligazione morale non è toccato dalla modalità con cui si perviene al giudizio stesso. E questo evidentemente traspare proprio nell'esempio che lei portava nel riferimento a Max Weber, traspare proprio nel fatto che per Max Weber, per così dire, l'appello alla responsabilità, che per lui non è per niente un appello soltanto di carattere formale, non dimentichiamo il Sitz im Leben, in cui Weber perviene a questa categoria della Verantwortungsethik, è proprio un Sitz im Leben del tutto concreto, cioè il richiamo di carattere così professionale a chi fa il mestiere del politico, Politikalsberuf, e dunque per lui è tutt'altro che formale, è tutt'altro che soltanto così connotato in una specie di carattere appellativo e esortativo. La categoria di responsabilità in ultima analisi misura il grado di assolutezza con cui si recepisce, si percepisce e si tende a realizzare l'istanza etica, quell'istanza che ho detto nella sua forza di obbligare, nella sua forza di metterci nei confronti di chi ci costituisce come soggetti, beansprucht uns, proprio questa forza obbligante traspare quando assumiamo la responsabilità come paradigma di un sistema di moralità. Ecco, vedrei su questa via una possibilità di proseguire un discorso, direi tenendo conto così di una possibilità, a condizione però di approfondimento intelligente e paziente delle vie, una possibilità di superare i modelli contrapposti e di pervenire a un tertium. In questo e nelle altre questioni di etica non si può dire che tertium non datur, perché la complessità che è tipica dell'oggetto del discorso etico, questa complessità è solo risolvibile all'interno del modello trans contrapposizionale, del modello del terzo. A me è capitato una piccola constatazione, così chiudo, di carattere linguistico. Quando preparavo questo testo ho incontrato in tutte le tre parti, dunque nelle due parti e nella conclusione, ho incontrato in Resmini l'espressione che ruotava intorno al numero 3. A proposito, nella contrapposizione tra rigoristi e probabilisti, Rosmini dice c'è un terzo modello. A proposito della questione tra autonomia e eteronomia, c'è una terza possibilità. A proposito di queste due contrapposizioni che egli non nomina con il linguaggio che ho adoperato io, parla di un terzo ordine delle idee, dunque tertium datur. E noi in etica siamo i servitori della tematizzazione di questo tertium. Rivalutiamo io che allora anzitutto formalmente sì. Non è detto che non siamo il professor Nicoletti. Ringrazio per gli interventi. Il professor Marini ha posto il problema del rapporto tra società universale del genere umano e società religiosa. Lo ringrazio anche per aver ricordato anche questi aspetti del pensiero di Piovani che in qualche modo sono più complessi di quello che forse può essere il risultato della mia relazione. Il punto è un punto molto complesso che fra l'altro io appena ho cominciato ad affrontare, forse studiosi di Rosmini assai più esperti di me presenti in sala possono rispondere meglio, e credo che comunque sia un punto decisivo. Rosmini parla di una società teocratica naturale che vede appunto come società universale del genere umano che si compie e si perfeziona nella società teocratica perfetta o società religiosa o ancora, usa questo termine anche come chiesa nel suo compimento finale o ancora regno di Dio. Queste diverse gradazioni che Rosmini prevede, il passaggio dalla società universale del genere umano al compimento di questa società nella società teocratica perfetta, sono date, dice Rosmini, da due aspetti. Quanto il bene, quella società teocratica, cioè la società che formano gli uomini con Dio, è tanto più perfetta quanto il bene comune fra gli uomini e Dio è maggiore, secondo quanto è più stretta la comunione in cui quel bene si possiede e si gode. Da questi due criteri noi possiamo agevolmente dedurre gli stati o gradi di minore o maggior perfezione in cui la società teocratica si può concepire. Quindi le diverse gradazioni sono le diverse gradazioni con cui si stabilisce questo rapporto tra Dio e gli uomini attraverso l'iniziativa di Dio partecipano di Dio stesso, che è il bene sommo. All'interno di questa gradualità, a me pareva importante problematizzare questo aspetto, cioè non identificare la società teocratica con la Chiesa, nel senso di dire la Chiesa è ciò che realizza la società originaria e dunque questo compimento della società universale del genere umano appartiene solo alla vicenda della Chiesa che si compie appunto in un ordine soprannaturale, mentre nell'ordine naturale questo germe iniziale viene in qualche modo perduto. A me pare che invece sia presente anche una vicenda, uno sviluppo naturale della società universale del genere umano, che appunto, e qui forse si può vedere questa vicinanza col pensiero di Kant, proprio con quanto lei ricordava prima, un perfezionamento sul piano giuridico e non sul piano etico. Questo è molto importante, non vorrei che anche il mio accenno al millenarismo avesse creato qualche possibile fraintendimento, e mi pare che Rosmini condivida questa convinzione che sia possibile, attraverso anche il ruolo del cristianesimo nella storia, è stato quello dell'incivilimento della società e quindi dell'introduzione anche di un ordinamento giuridico migliore rispetto appunto a quello precedente, e quindi come si è passati dal superamento dell'egoismo familiare al un orizzonte più ampio, che è l'orizzonte della nazione, così Rosmini auspica che si possa superare anche questo egoismo nazionale in uno sguardo appunto più ampio. Uno sguardo più ampio che Rosmini non definisce, di cui è però chiaro questa sorta di istituzione di un tribunale politico che dovrebbe in qualche modo dirimere, se si capisce correttamente il suo pensiero, le controversie internazionali, il ruolo che la Chiesa ha svolto nell'età moderna e di cui in qualche modo c'è appunto bisogno. E, ecco, questo però rimane naturalmente un problema che chiama in causa anche molti aspetti teologici e quindi non è risolto, insomma, da queste poche cose che ho detto. Il secondo problema era quello posto dal professor Conigliaro, e anche qui lo ringrazio per le cose che ha detto. Io ho fatto questa analogia tra antiperfettismo e riserva escatologica perché ho trovato usata la categoria di riserva escatologica nel libro di Lorizio, a proposito della sua trattazione, il tema escaton, e quindi l'ho un po' assunta così, però condivido la distinzione tra le due prospettive, che restano poi anche in molti altri aspetti indubbiamente diversi. Penso sulla categoria di mezzo della memoria sovversiva, è indubbiamente una categoria che in Rosmini non trova posto. Sul problema del tribunale politico della proprietà, eccetera, questo è un problema spinosissimo, su cui però mi sembra di poter dire, primo, che la questione della proprietà va letta, come appunto anche lei accennava, nel suo nocciolo teologico e filosofico. In questo credo che le cose, almeno che io ho visto, di Capograssi e di Piovani sono veramente, insomma, ricche, e vanno proprio nella direzione che lei accennava, di una concezione della proprietà come questo abbraccio affettuoso dell'uomo verso le cose, questo amore che si estende verso le cose e che attrae le cose all'interno di questo rapporto amorevole. E come questo si concili con la dinamica sociale della proprietà è naturalmente un problema, però non va smarrito questo aspetto, quindi il giudizio del Gioberti su Rosmini, che sarebbe più tenero nei confronti della proprietà privata di un colono bianco delle Antille, non dà ragione, insomma, di questo aspetto più profondo. E ciò che invece mi pare importante tenere presente a proposito del tribunale politico è che il tribunale politico non riguarda solo i proprietari, perché il tribunale politico invece deve tutelare i diritti, e non solo, quindi, non solo le cose, ma anche le persone, che nella società civile vengono messe in comune cose e persone. E non a caso nell'elezione del tribunale politico non partecipano solo coloro che contribuiscono, ma avviene suffragio universale. Non solo, ma anche per quanto riguarda la partecipazione al governo delle cose, che è fatto su una base di rappresentanza proporzionale, però Rosmini prevede l'elettorato passivo da parte dei nullatenenti, perché amministratori delle cose altrui possono essere anche. Da questo punto di vista non è vero che i non proprietari non hanno parte, diciamo, alla società civile. C'è questo doppio, potremmo dire, binario, che è fondato sul fatto che per Rosmini appunto il governo ha questi due aspetti. E comunque poi anche la visione della proprietà va vista in rapporto, mi pare, in Rosmini, soprattutto nelle ultime cose sulle Costituzioni, in rapporto alla contribuzione. Quindi non è solo la proprietà terriera, ma invece mettiamo in comune delle cose, e quindi proporzionalmente alle cose che vengono messe in comune ne deriva un determinato potere di decidere sull'amministrazione di questi beni. Ecco, però in questo modo mi pare che si riesca a superare anche un certo rapporto con la proprietà terriera, se capisco bene il suo accenno all'ancien régime di cui sopra. Ecco. Ma indubbiamente anche qui, insomma, il problema è molto, molto vasto. Allora cedo, restituisco il potere al presidente. No, al professor ce l'hai ancora, semplice. No, aspetta. No.